steso sul suo divano. Una voce ballerina si avvicina un po' furtiva. Mi spaventa e poi mi volto. C'era il bambino su un canone. Però non potevo dire al bambino. E quindi ho detto, c'era un toro su un canone. Sono sveglio vicino a te, visto che brutta sei, avessi scritto